impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giovanni Pasini e Calvisius, il caviale italiano che si vende in Russia, di Alessandra Scaglioni. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Agroittica Lombarda, un'azienda italiana che produce caviale e lo esporta, tra l'altro, anche in Russia, e che è nata da un'altra azienda siderurgica avviata dalla famiglia Pasini negli anni 70 nella provincia di Brescia. Presidente di Agroittica Lombarda è Giovanni Pasini. Ma l'attività dell'allevamento nasce circa metà degli anni 70. Nel 73 un gruppo di imprenditori siderurgici decide di fare un'acciaieria a Calvisano, nella provincia di Brescia, nella bassa bresciana, e nel fare l'acciaieria si scopre una ricchezza d'acqua veramente elevatissima, cioè basta fare un foro di poche decine di centimetri e zampilla acqua in maniera impressionante, cosa che crea l'acciaieria un sacco di problemi, perché addirittura per fare le fondazioni in acciaieria si sono dovuti utilizzare i palombari e i costi di realizzazione in acciaieria sono stati molto superiori rispetto al budget. Il problema viene trasformato in opportunità. Molta acqua riscaldata può servire anche a fare qualcos'altro. Da questo problema è nata anche l'opportunità di sfruttare questa acqua, tenendo presente che allora, diciamo, gli imprenditori siderurgici erano in contatto con un'azienda di Padova che faceva, diciamo, il trattamento delle acque per gli impianti siderurgici e che aveva esperienza di allevamento, perché ha un allevamento nelle valli di Comacchio dove allevano branzino. Allora, dall'insieme di queste cose è nata l'idea di sfruttare l'acqua, di sfruttare il calore dell'acciaieria per allevare all'inizio anguille e poi, diciamo, sviluppare in fasi successive l'allevamento dello storione negli anni 80, che ha portato a fine anni 90 al caviale. La famiglia di Padova è la famiglia Ravagnan, con cui nasce una società per sviluppare le competenze diverse e complesse che l'itticoltura richiede. Il mondo è totalmente nuovo, sicuramente allevare specie ittiche è molto diverso da fare siderurgia, non solo, ma allevare una specie ittica piuttosto che un'altra è una cosa estremamente diversa, quindi all'inizio le anguille hanno avuto una serie di problematiche, gli storioni sono stati una cosa completamente diversa, però in questo ci hanno aiutato, diciamo, molto la passione di uno dei siderurgici, che è il signor Giovanni Tolettini, che ha seguito da vicino tutta la nascita dell'azienda, e dall'altro invece l'esperienza del dottor Gino Ravagnan, che è ancora presidente onorario della società, che ha portato, diciamo, la sua esperienza nel settore ittico. All'inizio i pesci allevati sono di diverso genere, ma poi l'allevamento si direziona verso lo storione, anche grazie all'incontro di Gino Ravagnan con il professor Serge Doroshov, biologo marino all'Università di Davis in California. Il territorio di Calvisano, ricco di sorgenti d'acqua purissime, è particolarmente adatto per lo storione bianco, una varietà di storione tipico del Pacifico. Agroittica Lombarda diventerà la prima azienda in Europa in grado di allevarla in cattività. Qui, diciamo, l'idea nasce da questo dottor Gino Ravagnan, che nel 91 era in contatto con un'università americana, e con un esperto di itticoltura dell'università americana, e quindi si è appassionato a questo pesce che è lo storione, in particolare lo storione bianco, che è di origine californiana e che ha una peculiarità rispetto agli altri tipologie di storione, che ha una carne molto bianca. Quindi il fatto di avere una carne molto bianca, di avere delle proprietà organolettiche e nutrizionali molto valide, diciamo, ci ha spinto a spingere all'inizio parte dell'allevamento sullo storione, poi nel corso del tempo, diciamo, tutto l'allevamento è andato sullo storione e l'anguilla è stata addirittura abbandonata. Allevare lo storione non vuol dire conquistare subito i mercati. L'azienda lo alleva, ma intanto si specializza nell'affumicatura, anche per conto terzi ed anche per altre tipologie di pesce. Diciamo che lo storione ha una storia in Italia, perché c'era nel Po fino a metà degli anni 50, poi è stato praticamente estinto, E noi abbiamo un progetto di allevamento anche dello storione autoctono italiano, tanto vero che abbiamo lanciato quest'anno il caviale Da Vinci, proprio che deriva dallo storione autoctono italiano che noi abbiamo ricominciato ad allevare in uno dei nostri allevamenti. Diciamo che lo storione non ha una massa critica così rilevante, anche perché non c'è più la tradizione della pesca dello storione in Italia, e quindi è un pesce poco conosciuto che vendiamo alla fine in piccole quantità rispetto al mercato del pesce che c'è in Italia, quindi sono piccole nicchie. Diciamo che col tempo abbiamo creato anche uno stabilimento per la affumicatura dello storione, proprio per cercare di incrementare queste possibili parti di mercato nel quale si poteva vendere il nostro pesce. Diciamo che poi la parte affumicatura si è sviluppata anche con pesci di terzi, ecco, quindi noi siamo diventati leader in Italia nella affumicatura del pesce spada, facciamo anche tonno affumicato, salmone affumicato, perché da solo, diciamo, lo storione affumicato non era in grado di reggere i costi di uno stabilimento. E arriva così l'ultimo passaggio in ordine di tempo, quello che porta dallo storione al caviale, marchio Calvisius. Ma non è stato un passaggio semplice né immediato. All'inizio nessuno ci pensava, tanto vero che il ciclo dello storione è di circa 10-12 anni, ma nell'81 abbiamo iniziato a allevare lo storione e le prime produzioni di caviale sono arrivate verso fine anni 90. Perché, diciamo, uno dei fondatori, il signor Giovanni Tollettini, aveva tenuto via alcuni esemplari e quindi si è iniziata a fare la riproduzione, cosa molto importante perché noi abbiamo il controllo totale della filiera, e questo ce l'abbiamo dagli inizi degli anni 90, e poi verso fine anni 90 abbiamo iniziato a fare le prime produzioni di caviale, ma pochi chili. Diciamo c'è stata una coincidenza fortuita. Alla fine degli anni 90 lo storione viene decretato dal CITES essere una specie in via di estinzione. Essendo una specie in via di estinzione, diciamo, a livello mondiale vengono messe in atto una serie di operazioni per cercare di limitarne la pesca. All'inizio, diciamo, non hanno più di tanto risultato, c'è anche la pesca di frodo, però nel corso degli anni, diciamo, le quote di pesca che sono state assegnate ai vari bacini, diciamo, dove c'era lo storione selvaggio, sono state sempre più ridotte fino a diventare praticamente quasi nulle, ecco, quindi ad oggi il caviale è quasi solo ricavato da storione di allevamento. La definizione dello storione selvaggio come specie in via di estinzione fa crescere moltissimo il prezzo del caviale sul mercato ed apre nuovi spazi per lo storione d'allevamento. L'attività procede e cresce, non senza difficoltà. All'inizio noi facciamo delle produzioni, dobbiamo anche un po' imparare la tecnica di preparazione del materiale, di stadiazione del pesce. Impariamo autonomamente la tecnica di stadiazione del pesce, cosa molto importante per prendere il pesce al momento opportuno di maturazione delle uova per fare il caviale nella maniera migliore possibile. Da un lato, dall'altro lato, diciamo, acquisiamo anche dalla Svizzera alcune competenze di natura tecnica per sviluppare diciamo la parte invece diciamo tecnologica di salatura, il processo di salatura, il processo di conservazione, viceversa questo lo sviluppiamo noi internamente con i nostri tecnici, e quindi da questo punto di vista inizia la produzione del caviale. All'inizio nessuno crede al caviale d'allevamento. In Italia, ma anche all'estero nel mondo, tutti sono abituati a mangiare e a consumare e a vendere soprattutto caviale da storione selvaggio. Lo storione allevamento viene visto come un caviale di serie B. Anche se all'inizio è difficile, qualcuno inizia a crederci. La qualità media è molto buona, i rischi sanitari ridotti a zero. La prima a puntare sul caviale di Agroittica Lombarda è una compagnia aerea. Per fortuna crede in noi, diciamo, l'azienda che fa il catering per Lufthansa. Questo ci permette di fare un contratto con Lufthansa in cui noi gli forniamo il caviale, glielo forniamo tra l'altro nei tempi che vogliono loro, nelle qualità che vogliono loro, con un controllo completo anche degli aspetti, diciamo, sanitari, ecco, quindi abbiamo una camera bianca dove viene fatta l'estrazione. Questo permette a Lufthansa di sostanzialmente eliminare nell'arco di qualche anno totalmente, da un lato, il caviale da storione selvaggio, dall'altro lato qualsiasi claim relativo al caviale, che prima invece erano abbastanza numerosi a bordo. Poi il mercato si allarga sino a portare l'azienda ad una produzione importante. Dopo Lufthansa, nel frattempo il caviale da storione selvaggio, diciamo, piano piano riduce le proprie quantità. Noi siamo fra i primi sul mercato insieme ai francesi a vendere caviale da storione allevato, e quindi a questo punto, vista anche l'esperienza più che positiva di Lufthansa, riusciamo ad acquisire anche altri clienti, quindi altre compagnie aeree in principale modo, e soprattutto nei vari paesi riusciamo a andare su diversi distributori, importatori, in maniera tale da poter vendere tutta la quantità. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.